Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Radio 24 Reportage. Viaggiando a Milano, pendolari alla prova in attesa di settembre. Di Anna Marino. In pochi mesi le nostre vite, la nostra quotidianità sono cambiate, rivoluzionate dalla pandemia da Covid-19 in maniera radicale anche la mobilità urbana. Prendiamo ad esempio una città come Milano, da sempre i primi posti per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Da oggi e per i prossimi mesi la situazione cambierà, ce lo dicono i numeri. Secondo ATM a Milano, prima del coronavirus si registravano 2,2 milioni di passeggeri al giorno su tutta la rete, metro, autobus, tram e filobus. Dal 4 maggio, prima data di allentamento del lockdown, con la ripresa delle attività manifatturiere e dell'edilizia e del commercio all'ingrosso, era intorno al 12-13% di passeggeri trasportati rispetto a una giornata pre-Covid, una percentuale cresciuta a partire dal 18 maggio con gli spostamenti liberi all'interno della città e della regione fino a raggiungere il 20-25%. Da oggi a settembre si stima di rimanere sul 25-30% di passeggeri, numeri davvero molto bassi. La domanda è: come si sposteranno tutte le persone che non saliranno sui mezzi pubblici? Qualcuno in bici, qualcuno a piedi, la maggior parte in auto. Lo confermano i dati di una recente ricerca condotta da Arete, secondo cui 7 intervistati su 10 dichiarano che utilizzeranno l'auto per i propri spostamenti di lavoro e non. Ma sentiamo le storie e che cosa pensano i milanesi all'uscita delle metropolitane e alle fermate. Cerco di venire in bici sempre, ma ieri mi si è bucato, ho dovuto usare i mezzi, quindi userò prevalentemente la bici e poi i mezzi quando non potrò. Si fida? Devo, starò attenta. Dall'altra parte di Milano, 8 chilometri, 7-8 chilometri. L'utilizzo dei mezzi pubblici lo prevede, insomma lo fa tutti i giorni, anche diciamo a livelli di pre-Covid oppure adesso un po' meno? Un po' meno, e preferisco usare la bicicletta, comunque la uso tanto, però è ovvio che non si può usare per tutte le tratte. Quando serve prendo i mezzi pubblici, ovviamente facendo attenzione. Ti fidi adesso ad andare, diciamo, sui mezzi pubblici? Sì, assolutamente. Anche. Solo la mascherina. Anche a settembre, tutto l'anno. Andate in metropolitana o a piedi? No, in macchina. Non vi fidate della metropolitana? No, io mi fido e ci vado. Sì, e la mascherina va benissimo, perché no? Ecco, per quanto riguarda appunto famiglie, bambini, eccetera, avere, come dire, vagoni separati anche per loro nel traffico, per la loro sicurezza, potrebbe essere un'idea? Secondo me l'importante è che ci sia un'adeguata sensibilizzazione alle norme da rispettare per poter vivere tutti rispettando le vulnerabilità di ciascuno, perché non sappiamo come sta il sistema immunitario di ciascuno, dovremmo fare compartimenti stagni. Invece l'importante credo che sia un'adeguata sensibilizzazione al rispetto mutuo. Al di là delle necessità e delle abitudini, ci sono i bilanci concreti da fare anche per il futuro. La frequenza ridotta dei mezzi pubblici segnala una città che ha cambiato modalità di trasporto, scegliendo tra un ventaglio di possibilità, dalle due ruote, bici o moto, auto, insieme a bus e metro. Tra smart working e precauzioni bisogna pensare a gestire le nuove abitudini collettive, soprattutto a partire dal dopo pausa estiva e dal rientro negli uffici, anche se non più integrale come prima, dell'emergenza sanitaria. E bisogna pensare soprattutto alla scuola e alle famiglie, perché non rimangano indietro. Durante il blocco metropolitane bus trasportavano il 5-10% del totale pre-Covid. Per il bilancio della società partecipata è stato un impatto forte. A livello nazionale il Ministero dei Trasporti ha stanziato un fondo di 500 milioni in tutto per le aziende pubbliche locali, e di questi 45-50 dovrebbero arrivare a Milano. A livello regionale sarebbero 98. Intanto anche per i pendolari c'è un impatto che va gestito, soprattutto in autunno. Per esempio Trenord sperimenta la prenotazione antiaffollamenti sui regionali, sui weekend di luglio e agosto, con prenotazione tramite app di Trenord, anche se già titolari di un biglietto, di un abbonamento, fino ad esaurimento posti, dando il diritto al viaggio con un coupon digitale di prelazione. Il polso della situazione generale della mobilità milanese e lombarda è uno sguardo a come ci si organizza per il rientro dalla pausa estiva, raccontato dall'assessore del Comune di Milano Marco Pietro Granelli, coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI. La mobilità milanese era imperniata pre-Covid per quasi due terzi dall'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto dal trasporto rapido di massa, cioè le metropolitane, metrotranvie, insomma il trasporto pubblico permetteva a due cittadini su tre di Milano di utilizzarlo, e anche nel traffico di ingresso in città una quota considerevole era appunto sopperita. Noi avevamo 1.400.000 cittadini ogni giorno nelle nostre metropolitane. Questo con l'applicazione della normativa sul lockdown a partire dalla metà di marzo è sceso drasticamente, prima ad un 15%, poi a un 5% di utilizzo. Pur avendo un servizio pieno per garantire la possibilità a chi doveva far funzionare la città, pensiamo a tutto, agli operatori della logistica, delle pulizie, del sistema dei rifiuti, del sistema energetico, poter continuare a utilizzare il trasporto. Un servizio garantito che però adesso, come dire, necessita di precauzioni. Poi dal 4 di maggio, chiaramente con il cambiamento della normativa, si è visto un aumento dell'utilizzo, ad oggi progressivo, ad oggi siamo su un 40% dell'utilizzo del trasporto pubblico. A questo punto noi pensiamo che per settembre abbiamo la necessità di operare su due fronti. Uno, la ripresa ha bisogno di un trasporto pubblico sicuro, sicuro dal punto di vista del Covid, che viene, e questo non può che essere fatto con un mix di regole e di interventi. Noi stiamo garantendo una pulizia dei mezzi continua, sia nel momento in cui vanno in deposito sia durante la giornata, per dare il massimo della pulizia, dell'igienizzazione dei mezzi per contrastare il contagio e anche dal punto di vista della percezione da parte del cittadino, perché questo è l'altro scoglio, cioè fare in modo che non solo i mezzi siano più sicuri, ma vengono anche percepiti come sicuri. E questa è quello che stiamo appunto su cui stiamo lavorando, e abbiamo chiesto anche al governo di modificare le regole, cioè passare dal tema del distanziamento alle precauzioni. E quindi noi crediamo che sia molto più utile mantenere l'utilizzo obbligatorio della mascherina sul trasporto pubblico, di potenziare l'igienizzazione dei mezzi e la disponibilità sui mezzi di dispensatori di liquido appunto igienizzante, in modo che sia possibile per il cittadino avere un distanziamento minore ma essere nelle condizioni di sicurezza rispetto al contagio. A settembre poi ci saranno le scuole e da questo punto di vista siete attrezzati a questa onda d'urto? È chiaro che noi riteniamo che quell'onda d'urto possa essere gestita solo e soltanto se si riesce a fare quelle modifiche sul sistema del distanziamento e quindi diminuire la distanza interpersonale e aumentare i presidi di sicurezza. Avrete ricevuto anche degli stanziamenti da parte del Ministero dei Trasporti? Fino ad ora non ancora, nel senso che il decreto, diciamo, c'è un finanziamento di 500 milioni a livello nazionale, anche se le necessità sono del doppio, però essendo stato dichiarato che è, diciamo, rifinanziabile quel fondo, questo ci fa sperare che sia potenziato, noi auspichiamo raddoppiato. In conferenza unificata Stato-Regioni è stata data l'intesa sullo schema di decreto che permetterebbe appunto una suddivisione di una prima tranche molto significativa del fondo dei 500 milioni, quasi tutto sostanzialmente. Questo permetterebbe una prima boccata d'ossigeno. Teniamo però presente che il mancato introito dell'amministrazione comunale e per la gestione del trasporto pubblico prevista per l'anno 2020 è di un ordine di grandezza di 300 milioni di euro, e la quota dal fondo che dicevo prima nazionale per Milano si aggira intorno ai 50 milioni, 50 o 55 complessivo secondo dei conteggi. Siamo di fronte a un delta ancora molto elevato. Altra questione sono i pendolari che arrivano da tutto il resto della Lombardia, comunque Trenord ha sperimentato la prenotazione a tanti affollamenti, e qui il traffico si riversa su Milano o no? Il problema è questo, tant'è vero che noi dalla lettura delle telecamere noi abbiamo reintrodotto AC perché avevamo sostanzialmente un numero di ingressi superiore a quelli di pre-Covid in auto, e questo impedisce poi di reggere al sistema del traffico della città, cioè porterebbe la città ad essere congestionata e imballata, e quindi noi abbiamo bisogno di reintrodurre, e l'abbiamo fatto con RC, con la sosta regolamentata all'interno della cerca filoviaria, probabilmente dopo l'estate dovremmo rifarlo anche con gli altri strumenti che sono RB e il resto della sosta regolamentata per permettere di utilizzare di meno l'auto privata. La nota positiva è che i cittadini milanesi hanno risposto molto bene